Ti dirò che tu mi piaci, ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancor non conosci tu. Ti dirò che nel mio cuore più non ho che questo amore. Crederò nel paradiso se un dolce tuo sorriso al cuor d'amor mi parlerà. Tu mi puoi dare la vita, che non muore. Tu sei la gioia infinita che se passerà più non tornerà. Ti dirò che tu mi piaci, ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancor non conosci tu. Ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino.